Sicuramente non è che qui facciamo valutazioni e tifiamo per qualcuno e per qualcun altro, al di là appunto del fatto che comunque Syriza ha una storia un po' particolare, però sicuramente un occhio attento ai sviluppi delle elezioni greche che si sono appunto succedute in poco meno di 40 giorni è importante anche per capire un po' quello che succede in questo stato così vicino a noi per tanti motivi. E al centro dell'attenzione mondiale in questi giorni, proprio perché si sono ripetuti tantissimo gli appelli proprio diretti alla faccia della democrazia, perché i greci votassero come piaceva diciamo alla maggioranza dei governi internazionali. E qualcuno titolava sulla stampa greca che ha vinto la paura sulla rabbia. E vediamo un po' quali sono i dati. Intanto il dato importante è che Nuova Democrazia, che alle elezioni del 6 maggio aveva il 18 e rotti, è passata al 29, quindi con un incremento grosso che però non la riporta al 33 e qualcosa del 2009. Insomma, questi sono confronti che sono importanti per capire. Syriza sale ulteriormente di 10 punti, dal 16 e rotti a 26 e rotti, aveva il 4,60 nel 2009. Il PASOK cade ancora, ma più di tanto non poteva perché il crollo già c'era stato enorme il 6 maggio. E i greci indipendenti pure scendono, questa formazione di destra scende, non era presente nel 2009. E il crollo totale è del Partito Comunista, che aveva più o meno tenuto il 6 maggio rispetto, anzi forse con un lieve aumento rispetto al 2009, invece adesso passa a livello nazionale al 4,50. Alba Dorada mantiene quel diciamo 6 e rotti, quasi 7 al percento, quindi veramente alto per una formazione che aveva lo 0,29, quindi niente nel 2009, e così poi via via. E Sinistra Democratica, che è l'ultima formazione che riesce ad accedere al Parlamento, più o meno mantiene quello che aveva, il 6 e qualcosa per cento che aveva ha avuto il 6 maggio. Allora, il discorso qual è? Che con il premio di maggioranza di cui abbiamo parlato ampiamente, cioè 50 deputati in più al primo partito, i seggi sono 129 per Nuova Democrazia, 71 per Syriza e 33 per il PASOK e così via. E le possibilità, sì, tu dicevi della possibilità di un governo di coalizione, ed è evidente perché nessun partito, il primo partito che per costituzione, cioè secondo la costituzione greca, il cui segretario diventa automaticamente capo del governo incaricato, non può, i parlamentari sono 300, quindi non può governare da solo. E allora qual è un po' il panorama? Ovviamente una coalizione è possibile solo con il PASOK, però qui, a meno che non siano manfrine così propagandistiche, il PASOK per bocca di Venizelos, che è il suo segretario dopo le dimissioni di Papandreou e già ministro dell'economia nel governo cosiddetto tecnico di Papadimos, ha detto che se non entra Syriza il governo di coalizione, PASOK non aderirà a questo governo di coalizione. Il discorso è che comunque 129 più 33 dovrebbero più o meno dare questa maggioranza, che abbastanza risicata, insomma risicata, 160 più o meno, no? Di deputati su 300. E quindi, a parte il fatto che magari sì, con una maggiore, con altri 33 e con altri 71 deputati di Syriza sarebbe una maggioranza abbastanza bulgara e quindi metterebbe al sicuro questo Parlamento, però evidentemente Tsipras, il segretario di Syriza, ha immediatamente detto che non se ne parla nemmeno di un suo ingresso al governo con questi partiti, e quindi è forse una richiesta di suicidio nei confronti di Syriza. Io non so come interpretarla. Ci possono essere altre formazioni, però dai greci indipendenti alla Sinistra Democratica, che possono insomma dare un po' più di respiro a questo governo. Le dichiarazioni, diciamo, Samaras ovviamente ha detto che ha vinto l'euro, e questo fa parte poi di tutta la disinformazione che fino a ieri sera, dopo aperte le urne, continuavano anche i nostri telegiornali, nonché poi i giornali nei giorni scorsi, a approfondire a piene mani, cioè il fatto che Syriza fosse il partito che voleva uscire dall'euro, questo assolutamente non è mai stato dichiarato. E Syriza ha sempre detto che voleva rimanere nell'euro e rinegoziare il memorandum, cosa che fra l'altro è stata un po' il cavallo di battaglia dell'ultima parte della campagna elettorale di Nuova Democrazia, di Samaras, che ha sempre detto che voleva ha detto in quest'ultima fase della campagna elettorale che voleva andare comunque a una ridiscussione del memorandum. Quanto questo siano state parole non so dirlo, anche perché comunque nel momento che è arrivata questa dichiarazione nei sondaggi Nuova Democrazia, che era dietro a Syriza, ha cominciato a risalire. Un altro dato molto importante da considerare è che l'astensione è ancora più alta del 6 maggio, è salita di un punto più o meno, era al 36 e qualcosa, è arrivata al 37,53, quindi veramente molto molto alta. Nel 2009 era stata del 30%. E fra l'altro sono diminuite, leggevo sulla stampa greca, sono diminuite le schede nulle e le schede bianche, quindi la gente non è proprio andata. E che cosa, chi abbia potuto penalizzare questa astensione è difficile dirlo. Una cosa importante che salterebbe agli occhi è che comunque parte dei voti del Partito Comunista dovrebbero essere confluiti in Syriza, questa è un po' una prima analisi che si può fare. E poi non possiamo sapere se chi si è astenuto al 6 maggio sono le stesse persone che si sono astenute adesso, queste sono valutazioni un po' difficili. Sul piano poi dell'analisi regionale un po' delle votazioni, come nel 6 maggio la zona dell'Attica, quindi la zona di Atene, anche la zona di Salonicco e il Pireo sono zone dove Syriza ha superato ampiamente il 30% collocandosi come primo partito, mentre nel Dodecaneso, per esempio, nelle Cicladi, in altre zone della Grecia è Nuova Democrazia. Quindi c'è anche da considerare questa differenza fra grandi centri urbani, zone più o meno industrializzate e poi tutta la provincia e le isole greche. Una cosa interessante, così tanto come nota un po' di colore, è che lo zoccolo duro del Partito Comunista, che ha tenuto ampiamente, è niente meno che l'isola di Zante nello Ionio, insomma, questo è tanto. Quindi c'è un po' d'Italia in tutto questo. Sì. E invece, mentre per esempio in Laconia, in Argolide, eccetera, Laconia è una regione del Peloponneso, lì Nuova Democrazia ha veramente sbancato. E Tsipras pure ha dichiarato, appunto, che non, il segretario Siris ha dichiarato che non parteciperà assolutamente a questo governo e che anzi dall'opposizione ovviamente i giochi non sono chiusi e potrà dall'opposizione incidere comunque sulla politica greca. Io credo che questo sia, al di là del giudizio sulla presenza in Parlamento o meno, sia comunque un fatto vero, perché sicuramente che un partito che solo 3 anni fa era al 4,60 adesso si trova al 26,89, nonostante tutta la campagna veramente di paura. Io sabato da Segna Stampa parlavo di ammassamenti di truppe ai confini della Grecia, che sicuramente non è ancora un fatto reale, ma in senso figurato sì, sicuramente, perché sono stati veramente schierati tutte le armi possibili per esercitare questo ricatto nei confronti del popolo greco. Per concludere, perché per adesso insomma, una cosa che mi sembrava interessante era la pagina di Dan Plirono, che è questo movimento di cui abbiamo parlato tanto, Non Pago, no? Che ha organizzato numerose forme di autoriduzione, di resistenza anche nei confronti dei memorandum rispetto ai greci, che appunto nella prima pagina di ieri ha dichiarato, c'era scritto che qualsiasi sia l'esito delle votazioni di questi giorni, lunedì le persone, i greci, avranno un motivo in più per tornare a stare nelle strade, che mi sembra una cosa sintetica ma estremamente efficace. E per concludere direi che è interessante invece, che è fuori dal coro, la dichiarazione del premio Nobel per l'economia Paul Krugman, che ha dichiarato, dice, adesso potranno portare avanti politiche che non funzionano e viva, cioè lui dice, anche se neodemocrazia ha vinto le elezioni in Grecia, Atene uscirà ugualmente dall'euro perché si continuerà ad attuare politiche fallimentari. Qualcuno dice, ma forse uscirà prima la Spagna, nel senso, chiariamo sempre, uscirà nel senso che sarà cacciata fuori, perché nessuno può uscire, essere sbattuto fuori dall'euro, però uscirà nel senso che sarà messa in condizioni di non poterci più restare. Vedremo insomma quello che potrà succedere, soprattutto quello che succederà, diciamo, a livello di forme di lotta, di organizzazione, come tanti esempi ci hanno dato poi in questi 2 anni e mezzo i greci. Fra l'altro, una nota di colore è che mi pare venerdì prossimo, per come funzionano i campionati europei, la Germania e la Grecia si incontreranno, quindi puoi immaginare. Vediamo. Tra l'altro, questa cosa, come anche in Italia funziona anche così, è stata questa inesperata qualificazione, passaggio di turno della nazionale greca, ovviamente ha fatto un po' così a tarallucci e vino risvegliare lo spirito nazionale, però questa volta funziona anche antitedesca, perché i motivi sono tanti. Non so se mi vuoi chiedere qualcosa. Sì, al di là dell'analisi, oggi avrei letto qualcosa anche tu sui giornali italiani, oltre al sollievo per la vittoria di Samaras, c'è anche l'idea che tutti dicono, beh, ma adesso ci sarà un ammorbidimento da parte e della Germania e dell'Unione Europea nei confronti delle politiche rivolte alla Grecia. Questo stesso ottimismo si respira anche sui media greci, sui giornali greci, oppure è soltanto roba di casa nostra? Ma questo non è che ne ho visti tantissimi, diciamo che la sensazione che ho avuto è stata un po' così, di un momento di stand by, sinceramente, anche perché viverla da dentro lì, sì, certo, tutti ci sperano. Io credo che il voto a Nuova Democrazia, come dicevo prima, sia nato anche, cioè questo aumento e in concomitanza l'aumento grosso a Siriza, sia nato proprio dal fatto dello spostamento verso la fine della campagna elettorale di Samarà, che coi sondaggi alla mano ha visto che non pagava rivendicare la fedeltà al memorandum, no? Quindi, a parte buttarlo in caciara sul fatto che si torna alla dracma tragedia, è stato anche chiedere questa cosa. Sicuramente secondo me qualcosa gli verrà dato in questo senso, ma anche perché era un po', secondo me è un po' nella politica europea in questo momento, in cui la Merkel di fatto si trova molto molto isolata rispetto agli altri stati, perché è evidente che continuare una politica del genere non fa bene nemmeno alla Germania e nemmeno nel lungo periodo, forse anche in un medio breve periodo, insomma. Quindi hanno votato per cercare di non peggiorare la situazione, e questo sicuramente è quello che si aspettano. Senti, l'ultimissima cosa, per quelle che sono le tue impressioni, è immaginabile, non adesso, insomma, appunto nel medio periodo, che il PASOK diventi, quindi i socialisti, che sono quelli che hanno governato la politica del paese insieme a Nuova Democrazia negli ultimi 30 anni, lascino il passo, almeno per quanto riguarda l'ambito politico o istituzionale progressista, a Siriza? Oppure dobbiamo immaginarci che fra un po' si ritornerà al bipolarismo vecchio stile? Che si pensa da questo punto di vista in Grecia? Ma il bipolarismo significava l'alternanza fra Nuova Democrazia e PASOK, no? Credo che, certo, intendi questo. Sì. Io il PASOK attualmente lo vedo completamente spappolato, a parte i dati elettorali, cioè questi non escono nemmeno per strada, su fa specie, e questo purtroppo sono i giochi della cosiddetta democrazia borghese, che un partito come Nuova Democrazia, che ha responsabilità enormi rispetto alla situazione greca, perché è il partito che ha gestito le Olimpiadi, è un partito di corruzione molto più del PASOK, non che il PASOK sia candido e puro, però veramente Nuova Democrazia è un po' a livello proprio dei peggiori partiti nostri, per capirci, quindi una corruzione veramente incredibile, e che è un po' la caratteristica poi di questi partiti greci, quindi fa un po' specie pure che poi hanno truccato i conti ai tempi in cui c'è stato l'ingresso dell'euro, coperti dal PASOK del resto. E, però ecco, certamente il PASOK, come tutti i partiti che a chiacchiere parlano di progresso e poi nei fatti fanno una politica di destra, alla fine la gente se ne accorge, per cui a quel punto magari dice vabbè, voto uno di destra veramente. Però diciamo che siccome in Italia abbiamo visto rinascere dalle ceneri pure i democristiani, mai dire mai, sai, tutto è possibile, però insomma io vedo che, sai, sul voto poi le analisi sono molto diverse che sulle situazioni di lotta, che sulle situazioni insomma concrete, dove certo, magari c'è meno persone ma più decisi. Però insomma sicuramente è qualche cosa che ha terrorizzato tutti, perché è la prima volta che un partito con queste caratteristiche arrivi a risultati del genere. Pensiamo che da noi è scomparsa Rifondazione, anche se ieri Di Liberto in una talk, mi pare, non so in che televisione, sia la 7, delirava di ricomposizioni anche all'interno insomma del nostro paese, tra la sinistra cosiddetta radicale, e poi tutti che gufavano dicendo ma Siriza è una coalizione tra vetero marxisti, cioè sa chi, insomma comunque hanno saputo evidentemente intercettare bene una grossa parte della popolazione, per quanto il dato dell'astensione è significativo e bisogna tenerne conto. Sì, e quindi insomma, come si dice in questi casi, staremo a vedere. Poi considerate fra l'altro che veramente il popolo greco è allo stremo, questo l'abbiamo detto, non c'è bisogno di ripeterlo, attualmente c'è un grossissimo incendio in Attica, perché incendi poi in Grecia sono veramente qualcosa di enorme, e mancano 5.000 vigili del fuoco perché non sono stati reintegrati, quindi ecco, questo tanto per dire l'ultimo anello di una situazione già drammatica.